La piccola finestra a battenti nella camera da letto di Margaret era ricoperta di rose e rami di vite, ma spostandoli un po' in fuori riuscì a scorgere le cime dei camini della canonica sopra gli alberi e a distinguere tra le foglie molte vie familiari. «Già!» disse la signora Perkis, lisciando il letto e mandando Jenny a prendere di corsa tutti gli asciugamani profumati di lavanda che riusciva a portare. «Ehi, i tempi sono cambiati, signorina. Il nostro nuovo reverendo ha 7 figli e sta costruendo una cameretta per degli altri, proprio lì fuori dove una volta c'erano il pergolato e il capanno degli attrezzi. E si è fatto mettere delle grate nuove e una portavetri in salotto. Lui e la moglie sono persone molto attive e tante volte hanno fatto parecchio di buono, o almeno è quello che dicono. Se così non fosse, direi che stanno mettendo tutto a suo quadro per un non nulla. Il nuovo reverendo è contrario all'alcol, signorina, ed è un magistrato, e sua moglie ha un mucchio di ricette per cucinare spendendo poco, ed è per fare il pane senza lievito. Tutti e due parlano così tanto ed entrambi nello stesso momento che ti mettono fuori combattimento, per così dire. Ed è soltanto dopo che se ne sono andati e si è un po' in pace che si pensa che uno magari poteva anche voler dire la sua sulla questione. Si mette a cercare i boccali dei mietitori nei campi di fieno e ci sbircia dentro e poi fa un mucchio di fracasso perché non sono pieni di birra allo zenzero. Quella con poco alcol, ma io che ci posso fare? Mia madre e mia nonna prima di me facevano portare del buon liquore di malto agli uomini che fanno il fieno e si curavano con sali e senna quando avevano qualche acciacco. E io devo continuare come facevano loro, anche se la signora Hepworth vuole a tutti i costi darmi confetti al posto delle medicine. Dice che sono molto più gradevoli, però io non ci credo. Ma devo andare, signorina, anche se voglio sentire ancora tante cose da voi. Tornerò presto. Quando Margaret scese al piano di sotto, il signor Bell aveva ordinato fragole con la panna, una fetta di pane nero e una caraffa di latte, insieme a del formaggio Stilton, e a una bottiglia di porto come spuntino per sé. E dopo questo pranzetto agreste, uscirono per una passeggiata, senza sapere che direzione prendere, tante erano le attrazioni da ogni parte. «Passiamo davanti alla canonica?» chiese il signor Bell. «No. No, non ancora. Andiamo da questa parte, facciamo un giro così torniamo indietro per di là», rispose Margaret. Qua e là vecchi alberi erano stati abbattuti l'autunno precedente e qualche cottage abitato abusivamente, costruito male e in rovina, era stato abbattuto. Margaret sentiva la mancanza di tutte queste cose insieme e di ognuna in particolare e se ne rattristava come fossero vecchi amici. Passarono davanti al punto in cui lei e il signor Lennox si erano messi a disegnare, il bianco tronco sfregiato dai lampi del venerabile faggio, tra le cui radici si erano seduti, non era più lì. Il vecchio, l'abitante del cottage diroccato, era morto. Il cottage era stato demolito e uno nuovo, pulito e dignitoso, era stato costruito al suo posto, nel luogo dove prima si ergeva il faggio. C'era ancora un piccolo giardino. «Non pensavo di essere tanto invecchiata», disse Margaret dopo una pausa di silenzio, e si voltò sospirando. «Sì», disse Bell, «sono i primi cambiamenti nelle cose familiari che fanno del tempo un così grande mistero per i giovani. Andando avanti con gli anni, quel senso di mistero viene perso. I cambiamenti in tutto ciò che vedo mi appaiono come naturali. L'instabilità di tutte le vicissitudini umane è per me familiare. Per te è nuova e opprimente. Proseguiamo e andiamo a trovare la piccola Susan», disse Margaret, trascinando il suo compagno su per un sentiero erboso che conduceva all'ombra di una boscosa radura. «Oh, con tutto il cuore, anche se non ho idea di chi possa essere la piccola Susan, ma ho una simpatia per tutte le Susan, perché amo Simple Susan. La mia piccola Susan è rimasta molto male quando sono partita senza salutarla, e da allora l'ho avuta sulla coscienza, poiché le ho causato un dolore che un solo piccolo sforzo avrebbe potuto evitare, ma c'è tanta strada da fare, siete sicuro di non stancarvi? Sicurissimo. Beh, certo, se non procederai così velocemente. Vedi, qui non ci sono panorami che possono fornire pretesti per fermarsi a riprendere fiato. Lo potresti considerare persino romantico camminare con una persona grassa e ansimante se io fossi Amleto, principe di Danimarca. Abbi compassione delle mie debolezze per amor suo. Camminerò più piano, per amor vostro. Mi piacete 20 volte più di Amleto. Per il principio che un asino vivo è meglio di un leone morto? Boh, forse sì. Non analizzo i miei sentimenti. Mi accontento di piacerti, senza esaminare con troppa curiosità di che materiale è fatto il tuo sentimento, e comunque non serve che camminiamo a passo di lumaca. Molto bene, camminate col vostro passo e io vi seguirò. Oppure state fermo immobile e meditate come l'Amleto al quale vi siete paragonato se vado troppo veloce. Oh, ti ringrazio, ma dato che mia madre non ha ucciso mio padre e in seguito non ha sposato mio zio, non saprei a cosa pensare a meno che non mi metta a valutare le possibilità di avere una cena cucinata bene o meno. Che ne pensi? Sono speranzosa. Un tempo era considerata una valida cuoca per quel che poteva valere l'opinione della gente di Helston. Ma hai considerato la distrazione mentale causata da tutto questo lavoro per fare il fieno? Margaret percepì tutta la gentilezza del signor Bell nel cercare di conversare allegramente del nulla, nel tentativo di non farla rimuginare troppo sul passato. Tuttavia, avrebbe preferito ritornare su quei sentieri tanto amati restando in silenzio, se non era addirittura così ingrata da desiderare di essere sola. Arrivarono al cottage in cui viveva la madre di Susan, rimasta vedova. Susan non c'era, era andata alla scuola della parrocchia. Margaret ci rimase male e la povera donna se ne accorse e iniziò a scusarsi in qualche modo. Oh, non preoccupatevi, disse Margaret, sono molto contenta di sapere che è a scuola. Avrei dovuto pensarci, è solo che di solito si fermava a casa con voi. Eh sì, è vero, e mi manca terribilmente. Le insegnavo quel poco che conosco la sera. Non era molto, di sicuro, ma stava diventando una ragazza così utile che ne sento molto la mancanza. Ma è molto più colta di me adesso. E la madre sospirò. Io sono completamente fuori dal mondo, ringhiò il signor Bell. Non fate caso a quello che dico. Sono rimasto indietro di 100 anni. Eppure vorrei dire che la bambina stava ricevendo un'istruzione migliore, più semplice e più naturale, rimanendo a casa e aiutando sua madre, e imparando a leggere un capitolo del Nuovo Testamento ogni sera accanto a lei, che ascoltando tutti quegli insegnamenti sotto il sole. Margaret non volle incoraggiarlo a continuare rispondendogli e prolungare in tal modo quella discussione davanti alla madre. Così si voltò verso di lei e chiese: Come sta la vecchia Betty Barnes? Non lo so, disse la donna piuttosto bruscamente. Non siamo più amiche. E perché no? Chiese Margaret, che in passato era quella che metteva pace nel villaggio. Mi ha rubato il gatto. Sapeva che era vostro? Non lo so, penso di no. Beh, non potevate dirle che era vostro e riprendervelo. No, perché l'ha bruciato. Bruciato! Esclamarono insieme Margaret e Bell. Arrostito! Spiegò la donna. Non era affatto una spiegazione. A forza di domande, Margaret le storse la terribile rivelazione. Una cartomante zingara aveva convinta Betty Barnes a prestarle i vestiti della domenica di suo marito con la promessa di restituirglieli puntualmente la sera del sabato, prima che il buon Barnes li avesse cercati. Ma era in ansia perché non li aveva riavuti e per la paura che di conseguenza il marito si arrabbiasse e dal momento che, secondo una di quelle incivili superstizioni di campagna, i miagolii di un gatto nell'agonia di essere bollito o arrostito vivo obbligavano, per così dire, i poteri delle tenebre a esaudire i desideri del carnefice, la donna era ricorsa all'incantesimo. La poveretta evidentemente credeva nell'efficacia della pratica, era soltanto indignata che per il sacrificio fra tutti fosse stato scelto proprio il suo gatto. Margaret ascoltò inorridita e si sforzò invano di illuminare la mente della donna, ma sconsolata fu costretta a lasciar perdere. Poco alla volta convinse la donna a riconoscere alcuni fatti la cui connessione logica e le cui conseguenze per Margaret erano perfettamente chiare. Ma alla fine questa, confusa, ripeté semplicemente la sua prima dichiarazione, vale a dire che era stato sicuramente molto crudele e non avrebbe voluto farlo, ma che non c'era niente che funzionasse di più per far ottenere a qualcuno ciò che desiderava. Tutta la vita aveva sentito dire così, e comunque era stato molto crudele. Margaret, disperata, si arrese e si allontanò amareggiata. Sei brava a non esultare per la mia sconfitta, disse Bell. Perché? Che cosa volete dire? Beh, lo ammetto, riguardo all'istruzione avevo preso un abbaglio. Qualunque cosa piuttosto che lasciare quella bambina crescere in mezzo a credenze pagane così radicate. Oh, che ricordi. Povera piccola Susan, devo andare a trovarla. Vi dispiace se facciamo un salto a scuola? Ma neanche un po', sono curioso di vedere un po' di quelle cose che imparerà. Non si dissero molto altro e attraversarono svariate vallette boscose il cui soffice verde aveva perso un po' del suo fascino, tanto da non riuscire a cancellare dal cuore di Margaret il dolore e il turbamento che la dettagliata descrizione di una simile crudeltà le aveva causato. E poi il modo in cui la descrizione era stata fatta rivelava una totale mancanza di cognizione e quindi di una qualche compassione per il povero animale sofferente. Il ronzio delle voci, simile al mormorio di un alveare pieno di operose api umane, si fece sentire non appena emersero dalla foresta, giungendo sul prato più aperto del paesino nel quale si trovava la scuola. La porta era spalancata e loro entrarono. Una signora vestita di nero, che videro passare svelta qua, là e in ogni dove, si accorse di loro e li invitò a entrare con una certa aria da padrona di casa che, come ricordava Margaret, assumeva di solito sua madre, soltanto con modi più languidi e delicati, quando qualche raro turista deviava dal suo percorso e andava a visitare la scuola. Capì immediatamente che era la moglie dell'attuale reverendo, quella che aveva preso il posto della madre. E da quel colloquio si sarebbe tirata indietro se fosse stato possibile. Tuttavia, in un attimo, ebbe la meglio su quella sensazione e in modo discreto avanzò, incontrando molti sguardi che, riconoscendola, si illuminavano e sentendo molte voci quasi soffocate che dicevano: «È la signorina Hale!» La moglie del reverendo udì il nome e i suoi modi si fecero improvvisamente più gentili. Margaret desiderò aver potuto fare a meno di percepire che erano diventati anche più altezzosi. La signora porse la mano a Belle dicendo: «Vostro padre, presumo, signorina Hale. Vi assomigliate? Sono molto lieta di incontrarvi, signore, e lo sarà anche il reverendo». Margaret spiegò che non era suo padre e raccontò balbettando della sua morte, chiedendosi tutto il tempo come sarebbe stato per il signor Hale tornare in visita a Helston, se le cose fossero state come la moglie del reverendo supponeva. Non sentì quello che la signora Hepworth stava dicendo e lasciò che fosse il signor Bell a rispondere, guardandosi attorno nel frattempo per cercare vecchie conoscenze. «Ah, vedo che vi piacerebbe tenere una classe, signorina Hale. Me ne rendo conto da sola. Classe prima in piedi per una lezione di analisi grammaticale con la signorina Hale». La povera Margaret, la cui visita era una questione sentimentale e per nulla un'ispezione, si sentì raggirata. Tuttavia, in qualche modo, avrebbe avuto un contatto con quelle vivaci faccine, familiari un tempo, che avevano ricevuto il solenne sacramento del battesimo da suo padre, e così si sedette, perdendosi un po' a cercare di riconoscere i lineamenti mutati delle ragazze, e tenendo la mano di Susan per 1 o 2 minuti, senza che nessuno la vedesse, mentre i bambini della classe prima cercavano i loro libri e la moglie del reverendo parlava con il signor Bell a una distanza ai limiti della decenza per una signora, tenendolo per un bottone, mentre gli spiegava la fonetica e gli riportava una conversazione che aveva avuto con l'ispettore al riguardo. Margaret si chinò sul suo libro senza guardare nient'altro, sentendo il brusio delle voci dei bambini e delle bambine. I vecchi tempi insorsero e lei si mise a pensare e i suoi occhi si riempirono di lacrime, fino a quando all'improvviso ci fu una pausa. Una delle bambine si stava inceppando sull'apparente semplice parola un, insicura su come definirla. «Un articolo indeterminativo», disse Margaret con gentilezza. «Vogliate scusarmi», disse la moglie del reverendo, tutta occhi e orecchi, «ma il signor Milsom ci ha insegnato a definire un come? Chi se lo ricorda?» «Un aggettivo assoluto», dissero 5 o 6 voci insieme. E Margaret si sedette piena di imbarazzo. I bambini sapevano più di lei. Il signor Bell si voltò e sorrise. Margaret non disse più nulla durante la lezione, ma quando finì andò tranquillamente da un paio delle allieve preferite di un tempo e parlò un po' con loro. Non erano più delle bambine. stavano diventando delle splendide ragazze, essendo così cresciute sfuggivano ai suoi ricordi, mentre lei, con i suoi 3 anni di assenza, stava scomparendo dai loro. Tuttavia, era contenta di averle riviste tutte, nonostante un velo di tristezza si mescolasse alla gioia. Quando la scuola terminò, per quel giorno erano appena le prime ore di un pomeriggio d'estate e la signora Hepworth propose a Margaret e al signor Bell di accompagnarla in canonica per vedere i... La parola miglioramenti le era quasi scappata di bocca, ma la sostituì con il termine più prudente, cambiamenti, che l'attuale reverendo stava portando. A Margaret non interessava affatto vedere le modifiche che urtavano contro i bei ricordi di come era stata la sua casa, tuttavia desiderava ardentemente vedere ancora una volta quel vecchio posto, sebbene tremasse all'idea del dolore che sapeva avrebbe provato. La canonica era così cambiata, sia dentro che fuori, che il dolore reale fu minore del previsto. Non sembrava più lo stesso posto. Il giardino, il piccolo parco, prima tenuto talmente bene che persino un petalo di rosa vagante sembrava una macchia sulla sua condizione perfetta e armoniosa, era cosparso dei giochi dei bambini, un sacchetto di biglie qua, un cerchio là, un cappello di paglia pigiato sopra un cespuglio di rose come un attaccapanni, fino a distruggere il bel ramo lungo e fragile, carico di fiori, che in passato sarebbe stato puntellato affettuosamente come un oggetto amato. Anche il tappetino quadrato dell'ingresso era pieno di tracce di bambini allegri, sani e sgarbati. «Ah!» disse la signora Hepworth. «Perdonate questo disordine, signorina Hale. Quando la cameretta dei bambini sarà finita, insisterò sull'ordine. La stiamo costruendo nella vostra stanza, credo. Come facevate, signorina Hale, senza una camera dei bambini?» «Beh, eravamo soltanto in due», disse Margaret. Voi ne avete molti di figli, suppongo. Sette! Guardate qua, stiamo realizzando una finestra che affacci sulla strada da questo lato. Il signor Hepworth sta spendendo molti soldi per questa casa, ma era davvero difficile abitarci quando siamo arrivati, per una famiglia così numerosa come la nostra, intendo, ovviamente. Ogni stanza della casa era cambiata, oltre a quella di cui parlava la signora Hepworth, che un tempo era stata allo studio del signor Hale. E dove la verde semioscurità e la deliziosa tranquillità del luogo avevano favorito, come aveva detto, una consuetudine alla riflessione e forse la formazione di un'indole più adatta al pensiero che all'azione. La nuova finestra aveva una vista sulla strada e molti vantaggi, come la signora Hepworth precisò. Da essa si riuscivano a vedere le pecorelle erranti del gregge di suo marito che si smarrivano nell'allettante birreria, inosservate nelle loro speranze, ma non nella realtà. Infatti il reverendo aveva gli occhi fissi sulla strada, anche mentre componeva i suoi sermoni più ortodossi, e teneva un cappello e un bastone a portata di mano per afferrarli al volo prima di uscire a rincorrere i suoi parrocchiani, che avevano bisogno di gambe veloci per riuscire a rifugiarsi al Jolly Forester prima di venire acciuffati dall'astemio reverendo. L'intera famiglia era vivace, attiva, chiassosa, generosa e non teneva molto in conto la delicatezza dei sentimenti. Margaret temeva che la signora Hepworth scoprisse che il signor Bell si stesse prendendo gioco di lei nell'esprimere ammirazione soprattutto per tutte quelle cose che non incontravano il suo gusto. E invece no, prendeva tutto alla lettera e con una tale buona fede che Margaret non poté fare a meno di congratularsi con lui mentre si allontanavano dalla canonica e camminavano lentamente verso la loro locanda. «Oh, non rimproverarmi, Margaret, l'ho fatto solo per te. Se non ti avesse mostrato ogni modifica con un così palese e soddisfatto senso di superiorità, commentando questo o quel miglioramento, sarei riuscito a comportarmi bene. Ma non continuare con le prediche, tienile per il dopocena, quando mi faranno addormentare e aiuteranno la mia digestione». Erano entrambi stanchi e la stessa Margaret lo era così tanto che non aveva voglia di uscire, come si era riproposta, a fare un'altra lunga passeggiata tra i boschi e i campi così vicini alla casa della sua infanzia. E in qualche modo questa visita a Helston non era stata del tutto, non era stata esattamente come si era aspettata. Il cambiamento era ovunque, fievole ma al contempo in grado di permeare ogni cosa. Le famiglie erano cambiate per un'assenza o una morte o un matrimonio, oppure per le naturali mutazioni sopravvenute con il passare dei giorni, dei mesi, degli anni che ci trasportano impercettibilmente dall'infanzia all'adolescenza. E poi, attraverso la maturità, all'età in cui cadiamo come frutti maturi sulla placida madre terra. I luoghi erano cambiati, un albero abbattuto, qua un ramo là, così che entrava un lungo raggio di luce laddove prima luce non c'era. Una strada era stata accorciata o ristretta e il verde sentiero che si estendeva irregolare al suo fianco, recintato e coltivato. Lo definivano un grande miglioramento, ma Margaret sospirava, pensando al vecchio fascino, alla vecchia desolazione e all'erba sui bordi delle strade di un tempo. Era seduta vicino alla finestra, sulla piccola sedia di legno, fissando con tristezza le sfumature della notte, che si accordavano bene con i suoi pensieri malinconici. Il signor Bell dormì profondamente, dopo l'insolito esercizio fisico durato tutto il giorno. Alla fine venne svegliato dall'ingresso del vassoio con il tè portato dentro da una ragazza di campagna con il viso arrossato perché quel giorno era stata impegnata in qualcosa di diverso dal solito lavoro di cameriera, andando ad aiutare a fare il fieno. Ehi là, chi c'è lì? Dove siamo? Chi è quella Margaret? Oh, adesso ricordo tutto. Non riuscivo a capire chi fosse quella seduta lì con un'aria così triste, le mani incrociate sulle ginocchia e il viso che guardava dritto davanti a lei così risoluto. Che cosa stavi guardando? Chiese il signor Bell andando verso la finestra e mettendosi in piedi dietro a Margaret. Ma niente, rispose lei, alzandosi rapidamente e mettendosi subito a parlare nel modo più allegro in cui riusciva. Niente davvero? Un tetro sfondo di alberi, alcune lenzuola bianche sulla siepe di rosa canina e una forte corrente di aria umida. Chiudi la finestra e vieni dentro a preparare il tè. Margaret non disse nulla per un po'. Giocava con il suo cucchiaino e non prestò particolare attenzione a quello che Bell diceva. Lui la contraddiceva e lei prestava la stessa sorridente attenzione alla sua opinione, come se fosse stata concorda alla sua. Dopodiché sospirò e posando il suo cucchiaino iniziò come se nulla fosse e con la voce acuta che solitamente dimostra che chi parla ha riflettuto per un certo tempo sull'argomento che desidera introdurre. Signor Bell, ricordate quello che dicevamo riguardo a Frederick ieri sera, vero? Ieri sera? Dov'ero? Oh, ricordo. Mi sembra una settimana fa. Sì, certo, ricordo che parlavamo di lui, povero ragazzo. Sì, e ricordate che il signor Lennox ha parlato del fatto che è stato in Inghilterra più o meno nel periodo in cui è morta la cara mamma? Chiese Margaret, e la sua voce si fece più cupa del solito. Ricordo, nessuno mi aveva detto niente prima. E io pensavo, ho sempre pensato, che papà ve l'avesse detto. No, non l'ha mai fatto. Ma cosa vuoi dirmi, Margaret? Voglio dirvi una cosa che ho fatto in quel periodo, un grave errore, disse Margaret, guardandolo improvvisamente con i suoi occhi trasparenti e onesti. Ho raccontato una menzogna e diventò tutta rossa. Vero? Non è stata una bella cosa, lo ammetto. Non è che non ne abbia dette un bel po' anch'io nella mia vita, non tutte in vere e proprie parole, come suppongo abbia fatto tu, ma in azioni o con grette perifrasi, portando le persone o a mettere in dubbio la verità o a credere a una menzogna. Sai chi è il padre delle bugie, Margaret? Beh, molta gente che si pensa tanto brava ha svariati collegamenti con le bugie, matrimoni morganatici, cugini di secondo grado improvvisamente allontanati. In tutti noi scorre il sangue indelebile della falsità. Avrei dovuto saperlo che tu non eri così immune esattamente come la gran parte delle persone. Cosa? Piangi, piccola? No, no, adesso non ne parliamo più, se va a finire così. Suppongo che tu ne sia dispiaciuta e che non lo farai di nuovo. E poi è stato tanto tempo fa, e per farla breve voglio che tu sia allegra, non triste questa sera. Margaret si asciugò gli occhi e cercò di parlare di qualcos'altro, ma improvvisamente esclamò di nuovo: Vi prego, signor Bell, permettete che ve ne parli. Magari potreste aiutarmi in qualche modo. No, aiutarmi no, ma se sapeste la verità, forse potreste mettermi sulla retta via, che non è quella, dopo tutto. Disse disperata per non essere stata in grado di esprimersi in modo più preciso come desiderava. L'atteggiamento del signor Bell cambiò completamente. «Raccontami tutto, piccola», disse.